Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi prendiamo il caffè in famiglia. È tornata a trovarci una nostra vecchia conoscenza, Marina Migliavacca Marazza, giornalista, scrittrice, autrice di romanzi storici, che ogni tanto ci viene a trovare e ci porta per mano a fare qualche viaggio nel passato, facendoci scoprire quanto sia collegato al presente, proprio come ha fatto la scorsa estate, vi ricordate, nel viaggio con Leonardo, prendendo proprio spunto dal suo libro L'ombra di Caterina. Tra l'altro sta per uscire un suo nuovo romanzo, sempre per Solferino, che si intitola Io sono la strega. Intanto ciao Marina, grazie per essere con noi. Buongiorno cara Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Marina, intanto Leonardo l'abbiamo lasciato, adesso Io sono la strega, di che cosa parli in questo libro? Mi intriga molto. Beh Nico, tu sai che la mia passione sono è sempre quella... Sì, strega guaritrice, vero? È sempre quella di tirare fuori un po' dall'ombra delle donne alle quali la storia non ha reso giustizia. E in questo romanzo Io sono la strega, che esce il 28 maggio, quindi tra poco, a fine mese, racconto la vicenda di Caterina D'Abroni, più nota come la strega di Milano, che è stata bruciata alla vetra nel 1617. È una storia appassionante, molto avventurosa, e devo dire che come al solito c'è stato ben poco da inventare, perché gli atti del processo sui quali baso tutta la narrazione erano veramente ricchissimi. Bene, bene, io non vedo l'ora di leggerla, ma oggi, cara la mia Marina, come si dice a Milano, siamo qui a parlare di fate più che di streghe, o sbaglio? Perché giusto. Il 12 di maggio di quest'anno fanno due secoli tondi dalla nascita di una donna molto speciale, venuta al mondo a Firenze, ma da genitori inglesi, e con un nome molto bello, che significa usignolo. Sicuramente avete indovinato, perché parliamo di Florence Nightingale, la dama della lampada, la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. Infatti il 12 maggio è diventato anche la giornata internazionale dell'infermiere. Marina, raccontaci la storia, perché è una storia molto appassionante. Davvero molto appassionante. Sono particolarmente felice di poter parlare di Florence Nightingale, perché questo ci dà un po' la possibilità di rendere un piccolo omaggio a tutti gli infermieri e al personale paramedico che negli ultimi mesi ha mostrato una dedizione, un'abnegazione, una professionalità incredibili. E questa è una professione nobilissima nella percezione di tutti noi, ma c'è stato un tempo, quando Florence è venuta al mondo 200 anni fa in una agiatissima e colta famiglia inglese, in cui le cose non andavano così. Senti, ciò nonostante, la rampolla di una ricca famiglia ben inserita nell'alta società ha voluto fare l'infermiera. È una storia molto bella, molto vocazionale, perché Florence sentiva proprio di essere chiamata ad aiutare gli altri, come se un'entità divina in persona le avesse affidato una missione molto, molto alta. Del resto, a pensarci, sua madre era molto, molto religiosa e i suoi nonni sono stati delle persone molto impegnate nel civile, abolizionisti, contro la schiavitù, cioè gente che in quel periodo lì aveva visto molto avanti. E quindi lei ce l'aveva un po' nel DNA, no? Lei ha impostato tutta la sua vita di conseguenza, ha rifiutato sistematicamente i buonissimi partiti che le venivano proposti, non si è mai voluta sposare. È andata a fare tirocinio in un ospedale gestito dalle diaconesse luterane addirittura a Düsseldorf per imparare il meglio che ci poteva essere, e ha messo a frutto i suoi talenti, perché lei era molto brava in matematica, in statistica e in lingue straniere, che saranno tutte delle capacità che le serviranno tantissimo quando lei si ritroverà in Crimea alle prese con degli ospedali da campo ai confronti dei quali possiamo dire che l'inferno di Dante era un posto carino. Senti, Marina, infatti l'immagine che si ha di lei, che qualcuno si ricorda dai libri di scuola, è quella di una signora in abiti vittoriani che si aggira per le corsie di un ospedale da campo con una lampada in mano. Esatto, Nico, perché da qui viene il suo soprannome, la dama della lampada, no? Quando scoppia la guerra in Crimea e i giornali cominciano a raccontare delle terribili condizioni dei feriti, Florence cosa fa? Nel 1854 parte con 38 volontarie che aveva formato lei, compresa anche qualche parente, più 15 suore che le aveva prestato un suo amico vescovo. Dico un suo amico vescovo perché la sua famiglia aveva delle amicizie molto altolocate. Però lei, a immaginarsela, no? Perché c'è questa iconografia, la dama della lampada che si aggira nelle corsie, ma lei non era tanto una che stava al capezzale del soldato ferito, quanto quella che oggi chiameremo una grande manager. Era una che faceva funzionare le cose, aveva una mentalità modernissima in fatto di igiene e anche di comfort del malato. Aveva capito il valore della formazione del personale, l'importanza di dare a un ferito che soffriva nel corpo anche prima di tutto il benessere psicologico, a parte il letto pulito. Aveva capito l'importanza di una cucina dove far mangiare della roba buona, sana, ai malati. Dove c'era Flo, la prima regola era lavarsi bene le mani, che è un motto che ricorre molto anche oggi. Può sembrare banale, no? Col senno nostro, ma i medici dell'Ottocento non è che avessero così chiara l'importanza della sepsi. Lei sì, quando lei arriva, è pazzesco dirlo, ma i soldati morivano più di infezioni, di tifo e di dissenteria che di pallottole o di cannonate, e lei riesce a compiere davvero un miracolo. Come ci riesce, Marina? Guarda, fa una cosa che a me ha colpito tantissimo. Si fa mandare un ospedale da campo prefabbricato. No, mi ha colpito perché siamo a metà Ottocento, no? E c'era già un ingegnere, veramente un tipo geniale, che si chiamava Isambard Kingdom Brunel, che era un innovatore pazzesco, molto impegnato anche lui sul sociale, no? Che si è preso a cuore questo progetto e ha fatto una cosa rivoluzionaria. Ha fatto un ospedale prefabbricato con un sistema di aerazione, un sistema di drenaggio, persino un rudimentale controllo della temperatura e un accesso diretto ai servizi sanitari, perché allora era tutto molto più, come dire, confuso, nella migliore delle ipotesi. E c'è da dire che all'inizio i medici erano un po' seccati, no? Da questa donna che arrivava lì e voleva imporre questi suoi principi, l'aria pulita, l'acqua pura, il sistema fognario che funzionasse, la pulizia, la luce, e poi addirittura anche delle cose astruse come il silenzio, perché lei pensava che un ambiente silenzioso favorisse il calore e una dieta, insomma, un'alimentazione corretta. E per loro sembrano un po' tutte delle sciocchezze, però quando la mortalità cala devono darle ragione, aprono gli occhi. Del resto essere dei precursori e per di più delle donne è sempre un po' faticoso nella storia. Ecco, qua bisognerebbe aprire un altro capitolo, ma io voglio salutare Marina, un'altra Marina che ho invitato, non potevamo festeggiare questa giornata senza di lei, è Marina Vanzetta, che è infermiera dell'ospedale Negrar di Valpolicella di Verona e operatrice del 118. Ciao Marina. Buongiorno. Allora, una giornata che noi vogliamo festeggiare, Marina. In questa emergenza gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari sono stati applauditi, ringraziati, definiti degli eroi, degli angeli, ma parlando con i medici, parlando con gli infermieri, raccolgo da loro un messaggio che sono certa anche tu condividi: non siamo né angeli né eroi, abbiamo fatto il nostro lavoro. Marina. Sì. No, non siamo né angeli né eroi, siamo dei professionisti molto seri, abbiamo imparato molto da Florence, ho sentito chi mi precedeva, abbiamo fatto tesoro noi di tutto quello tu che tu sei un po' la Florence. Nostra Florence di oggi, e con te tutti i tuoi colleghi, le tue colleghe naturalmente. Certo, noi siamo, come ti dicevo, dei professionisti che siamo molto, molto preparati, che abbiamo agito in questa situazione, competenze, capacità di organizzazione, capacità di formarsi e riformarsi in tempi brevissimi, capacità di rispondere ai bisogni complessi delle persone, capacità di riorganizzare reparti in 2 giorni. Abbiamo ribaltato i nostri ospedali, le nostre strutture, rivoluzionato il modo di fare soccorso sul territorio, ma questo l'abbiamo sempre fatto in ogni occasione. ci fa un po' specie che i più se ne siano accorti solo adesso, perché abbiamo sempre fatto quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare in questa emergenza senza mai lasciare da soli i cittadini e le persone che abbiamo assistito. Direi che in più abbiamo combattuto contro la solitudine che impone e ha imposto la gestione di questa emergenza, no? Tutti i pazienti si sono trovati da soli, sia certo. quelli ammalati di Covid, sia quelli non ammalati di Covid, e da soli anche i professionisti hanno gestito questo periodo, perché poi fuori dalle strutture erano da soli per non creare problemi ai congiunti, ai familiari, alle persone più vicine. E quindi sì, certo, io penso che tutti i miei colleghi pensino questo, noi non siamo eroi, non siamo angeli. Un mio collega, il presidente dell'OPI di Varese, diceva: sì, ci chiamano angeli con le ali sono le nostre competenze, le abbiamo sempre avute, le abbiamo sempre agite. Noi speriamo che poi ci sia adesso il tempo del fare, ma ci sarà un tempo dopo in cui noi auspichiamo che di avere tutti vicini e avere la riconoscenza di quello che abbiamo sempre fatto. Non è niente di nuovo per noi. E si riparte questa esperienza, Marina, sicuramente, no? Tutti noi la porteremo nella nostra quotidianità. Comunque ci ha cambiato, ci ha insegnato o ci ha aiutato a capire il valore di alcune cose messe in primo piano. Si riparte molto provati, perché noi abbiamo buttato il cuore oltre la staccionata, si dice così, abbiamo agito tutto quello che potevamo agire nel concreto, ma abbiamo pagato i tagli in termini di risorse umane e materiali di tutti questi anni. Quindi siamo molto provati da questo percorso, non ci siamo comunque mai tirati indietro e adesso ripartiamo. Sperando sì. che possiamo tutti far tesoro dei dati che abbiamo raccolto, delle esperienze, un po' come ci ha insegnato Florence, perché ce l'ha insegnato sì. lei, no? A dire bisogna far tesoro, ragionare su quel che è successo per evitare di ripetere gli errori, quindi speriamo questo. E si riparte tu dicevi prima il tempo della gratitudine, che no? Ci ha ringraziato sì. tutti, no? È un momento della gratitudine. Ecco, a me piacerebbe, mi fa molto piacere che noi veniamo ringraziati. Mi piacerebbe però che questa grazie che leggiamo in ogni dove, cartelli, sui social, sì. sui giornali, avesse gambe, come mi piace dire, e fosse tradotto nella consapevolezza dell'importanza del continuare a rispettare alcune prescrizioni. Ancora mi aggancio alla Florence: lavarsi le mani, mantenere le distanze sociali, fare attenzione a questo. Ecco, il più bel grazie, credo di parlare anche a nome degli altri operatori, medici, operatori sociosanitari, è questo: che ciascuno starci di noi vicino, faccia la sua parte. Brava, starci vicino per aiutarci ad aiutare. È la squadra che fa la differenza, noi lo abbiamo dimostrato in questo momento. Abbiamo bisogno che anche il cittadino sia in squadra e ringraziandoci così, lavandosi le mani, mantenendo la mascherina, non pensando che forse il peggio è passato, ma il problema non è risolto. Brava. Senti Marina, l'altra Marina, perché oggi ho due Marine, ha trovato per noi una chicca che si trova sul web, è la voce di Florence registrata, sì. Marina, questa è, chiedo a Marina Migliavà Camarazza, sì. su un fonografo, no? Quindi, questo qui è proprio una chicchina registrata, la bellezza di 130 anni fa, su un fonografo, proprio la voce di Florence. Grazie alle due Marina che sono grazie. State con me. A Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, a Lorenzo Nespoli in assistenza, a Laura Vanossi in redazione, ci lasciamo con la voce di Florence, registrata su fonografo, la bellezza di 130 anni fa. When I am no longer, even a memory, just and day